Strade e motori. Strade e motori. Di Massimo Di Scienza. Buon pomeriggio, buona domenica amici di Radio 24, ben trovati a un nuovo appuntamento con Strade e Motori. Anche oggi ci auguriamo di aver messo insieme tanti argomenti che possano essere per voi utili ed interessanti. Interessanti ad esempio per gli appassionati di moto, perché conosceremo meglio una delle eccellenze italiane nella produzione di motociclette, davvero di nicchia se vogliamo, ma che piacciono tanto e in tutto il mondo. Parleremo poi ancora una volta di auto, del mercato dell'auto, questa volta dal punto di vista dell'auto usata. Ci soffermeremo su un particolare scovato da quattro ruote che è al tempo stesso interessante ma anche preoccupante, non vi svelo di più, ne parleremo più tardi con il direttore Tedeschini, ma partiamo parlando e affrontando ancora una volta il tema dell'auto elettrica. Argomento di cui Strade e Motori si è occupata spesso nel corso di questa stagione, continueremo a farlo perché ovviamente è un argomento di grandissima attualità ed altrettanto grande interesse, ma spesso ci siamo anche chiesti cosa ne pensano gli italiani in effetti dell'auto elettrica. Una risposta ci arriva, è molto interessante ed importante, dal mensile Espansione, che questo mese ha pubblicato una ricerca in collaborazione con Interactive e che è stata presentata nel corso dell'evento Una scossa alla città, mobilità, energia ed ambiente, che si è tenuto mercoledì scorso a Milano al piccolo teatro Grassi. Vogliamo parlare di questa ricerca con il direttore di Espansione, Marco Gatti. Buongiorno e buona domenica a voi. Direttore, dicevamo in apertura, è un argomento che agli addetti ai lavori piace molto, quello dell'auto elettrica, però nessuno ci aveva ancora raccontato cosa ne pensano gli italiani. E allora lei la risposta. Sì, la risposta è sorprendente per diversi aspetti. Prima di tutto diciamo subito che l'auto elettrica interessa e piace. Il primo grande risultato che abbiamo ottenuto sulla base di 1000 interviste che abbiamo fatto fare a un campione rappresentativo degli automobilisti italiani è che a 2 italiani su 3 l'auto elettrica piace e sarebbero disposti a acquistarla, a possederla fin da ora, pur senza averla mai provata, pur senza averla mai vista nei concessionari, perché l'auto elettrica di fatto non esiste. Cos'è che convince di più gli italiani? La motivazione principale, anche questo è un altro dei risultati strani per noi, è che la prima motivazione è perché inquino di meno. Cioè la vorrei perché inquino di meno. È un 67,5%, quindi anche qui oltre 2 italiani su 3 danno come prima motivazione spontanea quella della coscienza ecologica, se vogliamo. Non il risparmio? Il risparmio è il secondo. È il secondo però solo con il 18%. Forse perché il risparmio, come dire, con l'auto elettrica è destinato ad arrivare col tempo, visto che la spesa iniziale, almeno allo stato dell'arte in questo momento, e con i costi di produzione e di fabbricazione dell'auto elettrica, soprattutto delle batterie, dicevamo la spesa iniziale è molto alta. Immaginiamo questo sia uno dei motivi che convincono di meno gli italiani, le principali incertezze. Questo non lo sanno, nel senso che... Eppure non lo ripetiamo spesso. Esatto, non avendole mai provate, non essendoci ancora i concessionari, quindi non essendo a listino, non sanno quanto costa. Danno quasi per scontato che ci sia un risparmio insito nell'auto elettrica. In realtà non è così, perché l'auto elettrica a oggi, senza incentivi e senza niente, di puro costo industriale, varia da 2 volte a 3 volte un analogo modello a scoppio, con motore a scoppio. Questa cosa non è percepita, cioè è percepita l'immagine di un'auto elettrica come un'auto che tutto sommato costa come un'auto normale con motore termico o addirittura di meno, perché poi quando siamo entrati negli aspetti economici abbiamo visto che c'è una disponibilità a spendere più di 15.000 euro che riguarda soltanto un 15%, 16% adesso non ricordo bene perché non ho sott'occhio i numeri, ma insomma una piccola minoranza, mentre invece oltre la metà è convinta che costi meno, che possa costare meno di un analogo modello. Per quanto riguarda l'autonomia dell'auto elettrica, che sappiamo essere limitata, l'auto elettrica in questo momento è soprattutto destinata a spostamenti cittadini, e la capacità, la possibilità di trovare le stazioni di rifornimento, le famose colonnine elettriche in città, gli italiani, insomma, su questi argomenti cosa ne pensano? Allora, sul discorso autonomia tutto sommato ci siamo, cioè grazie alle batterie al litio, che sono poi le batterie che abbiamo in tasca tutti noi, perché sono le batterie dei telefonini, le auto elettriche di oggi, di questa generazione, si muovono grazie a un insieme, una serie di batterie al litio, uguali a quelle dei telefonini, abbiamo raggiunto un'autonomia reale attorno ai 150 km. I nostri intervistati la ritengono per la maggioranza soddisfacente come autonomia e anche come prestazioni, perché si parla di velocità medie attorno ai 130 km l'ora, velocità massima, scusi. Velocità massima, per cui ci siamo, cioè l'immagine che gli intervistati hanno dell'auto elettrica sia come autonomia sia come velocità massima corrispondono tutto sommato alla realtà. Bene, direttore, uno spaccato molto interessante, direi anche esauriente, di quello che pensano gli italiani su questo argomento. Sicuramente torneremo a parlarne in uno dei prossimi appuntamenti con Strade e Motori. Noi nel frattempo ringraziamo il direttore di Espansione, Marco Gatti, che ci ha fatto compagnia. Grazie a voi, solo una nota. Sì. L'Italia al momento è uno dei pochissimi paesi che non ha ancora, a livello di paese, di governo, un piano per il lancio dell'auto elettrica, a differenza di Spagna, di Germania, di Francia, di Olanda, di Danimarca, e potrei andare avanti nell'elenco, Cina naturalmente e via così. Si trattano sempre di piani nell'ordine di diversi miliardi di euro. L'Italia al momento non ha nulla, e devo far notare anche l'assenza all'evento che abbiamo organizzato, a cui erano presenti tanti costruttori, dell'assenza del principale costruttore nazionale, sì. Non so come si usa dire, ma ci siamo capiti benissimo, perché al momento non hanno ancora niente da dire. Ma lo scetticismo di Fiat sull'elettrico è ben noto, quindi ne abbiamo parlato anche qui. Credo che questa la mancanza di una politica dal punto di vista del sistema paese dipenda anche da quello. Grazie a Marco Gatti, direttore di Espansione, buona domenica, presto. Grazie a voi, arrivederci. Più volte nel corso di questi nostri appuntamenti insieme abbiamo analizzato i numeri del mercato dell'auto nuova, e lo sapete benissimo, anche per quanto riguarda gli ultimi mesi, quello di maggio in particolare, il calo segna ormai cifre importanti, siamo intorno al 20% in meno rispetto allo scorso anno. Abbiamo analizzato più volte anche le cause di questa situazione. Oggi vogliamo affrontare il problema del mercato da un altro punto di vista, dal punto di vista dell'auto usata, cercando di capire se e come questo calo, questo crollo della vendita di auto nuove può in qualche modo essere compensato da un andamento del mercato dell'auto usata migliore rispetto agli scorsi anni, oppure no, e quali sono le dinamiche che si stanno mettendo in moto. Lo facciamo con Vincenzo Bozzo, che è country manager per l'Italia di AutoScout24. Buona domenica, Bozzo, grazie per averci raggiunto. Grazie, buona domenica anche a lei. Iniziamo presentando anche AutoScout24, ove ce ne sia la necessità. I nostri ascoltatori immagino conoscano bene questa piattaforma importante che si occupa di vetture usate e di vendita di vetture di auto usate su internet. Sì, AutoScout è il sito leader in Europa per la compravendita online di auto, in realtà presente da 10 anni sul mercato e da oltre 10 anni anche presente in Italia, dove appunto abbiamo un database che conta oltre 250.000 auto, in prevalenza, come diceva lei, usate, ma non solo, ci sono anche alcune auto nuove, alcune auto a chilometri zero, e dove a livello di audience, di utenti che visitano il nostro sito, siamo a oltre 3 milioni di utenti tutti i mesi. Questo ci permette di avere un osservatorio privilegiato sull'andamento del mercato, soprattutto sull'andamento del mercato online. Andamento del mercato che come è strutturato in questi primi mesi, i primi 6 mesi del 2010? Anche qui ci sono numeri negativi come per le auto nuove? Numeri non sono così negativi come per le auto nuove. Abbiamo assistito ad una fase di attendismo nei primi mesi dell'anno, quando c'era incertezza sul rinnovo o meno degli incentivi. Il mercato dell'usato l'anno scorso in tutti i principali mercati europei, ad eccezione degli UK, è stato penalizzato ovviamente dalla presenza di incentivi sulle auto nuove, perché hanno reso questi incentivi più appetibile l'acquisto di un'auto nuova, soprattutto di un'auto di piccola cilindrata, magari con un'alimentazione ibrida o carburanti tipo GPL o tipo metano. Ovviamente queste auto hanno attaccato l'auto del settore delle auto usate. Quest'anno invece, dopo i primi mesi appunto di attendismo, siamo in una fase di sostanzialmente consolidamento del mercato, quindi con volumi che non si discostano da quelli degli anni scorsi, volumi che riteniamo strutturalmente normali, anche se il mercato italiano dell'usato è un mercato che rispetto agli altri paesi europei ha ancora grossi potenziali di sviluppo. Chi si rivolge al mercato dell'usato in questo momento? Ma guardi, il pubblico è molto, molto trasversale, nel senso che ormai il consumatore, soprattutto in tempi di crisi, è sempre più nomade e sempre più opportunista nel senso buono del termine, che significa che se deve fare un investimento importante, sappiamo che l'auto è l'investimento, il secondo investimento più importante dopo la casa per gli italiani, guarda intorno e valuta tutte le opportunità, quindi non c'è più un trade-off a priori tra auto nuova, auto usata, ma c'è veramente una ricerca della migliore occasione, anche alimentata dal fenomeno delle chilometri zero, che è comunque un fenomeno molto consistente in questo periodo. Un'ultima domanda, Bozzo, ve ne siete occupati anche in un recentissimo convegno che vi ha visti protagonisti. Dall'esperienza dell'estero, dal mercato britannico, dal mercato tedesco, da quello francese, è possibile trarre qualche, tra virgolette, insegnamento per il mercato italiano? Quali sono queste vie che lei in qualche modo indicava in una sua risposta precedente che possono portare allo sviluppo del mercato dell'usato italiano? Ma ci sono diversi fattori prevalentemente strutturali legati alle pratiche per il passaggio di proprietà, alla semplicità delle pratiche amministrative per il passaggio di proprietà e al costo stesso del passaggio di proprietà, che possono essere snelliti e rendere più dinamico sicuramente il mercato, e questo è particolarmente vero sugli usati che hanno valori più bassi, perché il costo del passaggio di proprietà incide ancora parecchio su auto di valore limitato. Questo sicuramente è un aspetto. Il secondo aspetto è più un aspetto culturale, che appunto su internet, dove ci sono consumatori forse un pochettino più evoluti, ha già assunto una dimensione rilevante, ed è quello proprio dell'acquisto indifferente di auto nuova o auto usata, e questo è prevalentemente un fattore culturale che però si sta evolvendo e secondo noi si evolverà sempre più rapidamente, perché ormai abbiamo dei segnali che vanno dalla penetrazione di internet, che ormai ha raggiunto il 50% della popolazione, quindi il nostro mercato si sta avvicinando anche da questo punto di vista agli altri mercati europei, dove ricordiamo il rapporto tra vetture nuove e vetture usate vendute è superiore rispetto al rapporto nuovo usato che c'è in Italia di 1,5 volte, quindi diciamo che il mercato dell'usato in Italia ha un ottimo potenziale. Un quadro molto interessante quello che ha tratteggiato. Noi la ringraziamo Vincenzo Bozzo, Country Manager per l'Italia di Autoscout 24, per il suo contributo. Bozzo, magari ci risentiremo più avanti in una prossima puntata di Strade e Motori, anche per così farci da guida un pochino tra quelli che possono essere i segreti e i trucchi per scegliere bene un'auto usata da acquistare online o no. Va bene, grazie ancora. Molto volentieri, grazie a lei. Strade e Motori. Strade e Motori. Ora un'avvertenza, la prossima intervista qui in Strade e Motori è destinata ad un pubblico di appassionati di due ruote e soprattutto che amino la grande velocità e la grande sfida, se vogliamo, al vento, perché parliamo di una vera e propria eccellenza italiana nella produzione di moto. Parliamo della NCR, un marchio che è conosciutissimo nel circolo, diciamo così, degli appassionati di moto, e noi abbiamo in collegamento con noi, ed è un piacere salutarlo, Michele Poggi Pollini, che è CEO, come si dice adesso, di NCR. Buona domenica, Poggi Pollini, grazie per averci raggiunto. Sì, buona domenica a tutti, vi ringrazio per l'invito. Noi come NCR siamo un atelier, un'azienda che produce moto esclusive, fatte solo su ordinazione, solo su richieste per i nostri clienti. Il marchio NCR è un marchio storico che appartiene alla storia di Ducati dal 67. acquisito poi nel 2002 dalla nostra capogruppo azienda di famiglia Poggi Polini, che dagli anni 50 lavora le leggere come il titanio, l'alluminio, il carbonio oggi, e quindi applichiamo questa grande nostra esperienza, know-how di tecnologie su tutti i nostri progetti, sia i progetti di moto, l'ultimo quello appena presentato durante il World Cat Week di Misano, è la NCR Millona 16, una moto veramente spettacolare, tutta realizzata in carbonio. Abbiamo infatti presentato una soluzione al telaio inedita in carbonio, monoscocca. Il forcellone è in carbonio completamente, pezzo unico in carbonio portante, e il motore di questa moto è il Desmo 16 RR stradale, che viene poi da noi sviluppato e preparato. Infatti la performance finale è quella di oltre 200 cavalli alla ruota per 145 kg, quindi veramente una leggerezza unica nel contesto di una, diciamo, di un prodotto superbike. A proposito di unicità, sì, che lei sottolineava, in fondo voi siete un'azienda unica in questo settore, o quasi nel panorama italiano, possiamo definirvi un po', come dire, una piccola chicca del nostro paese, no? Sì, assolutamente sì. Infatti quello che noi abbiamo sempre voluto offrire al mercato, ai nostri clienti, è portare la tecnologia della Formula 1. Noi come Poggi Polini lavoriamo per Ferrari, Formula 1 e altri team di Formula 1 dagli anni 80, quindi vogliamo portare questa tecnologia avanzata ai nostri clienti, quindi dare non solo un prodotto esclusivo dal punto di vista dello stile, dell'estetica, del design, ma soprattutto dal contenuto intrinseco di tecnologia che offriamo. Infatti poi ne sono tutte le altre nostre moto, come la Millona. Infatti la Millona 16 poi a livello di design segue un po' la linea della semicarenatura della Millona che abbiamo presentato nel 2002 per la prima volta, con un motore a due valvole, ma ovviamente non lavoriamo solo per una nicchia del settore motociclistico, ma offriamo questa tecnologia a tutti i ducatisti. Infatti abbiamo una serie di cataloghi suddivisi per ogni moto Ducati, dal Monster fino ad arrivare appunto alla Desmo 16 RR, dove ogni ducatista può iniziare a preparare il motore, a step, la ciclistica, tutte le parti speciali dell'alleggerimento, e addirittura realizziamo su richiesta la telai, forcellone in titanio, quindi alla fine un cliente può prepararsi step by step quello che è una vera moto esclusiva con tecnologia NCR. Siamo visti un po' sul mercato come una specie di MG per Mercedes, anche se la Millona 16 è un qualcosa che va oltre questo accostamento che normalmente ci fanno. Qual è il vostro pubblico di riferimento? A chi si rivolge NCR con i suoi prodotti? Ma partendo dalla base del nostro mercato di riferimento, abbiamo tutti i ducatisti, tutto il mercato Ducati per il prodotto accessori e parti speciali. Poi da lì saliamo con le nostre moto NCR, e lì andiamo a colpire sia una fascia di clientela che vuole la moto da competizione, vuole la moto da pista per andare a divertirsi in pista, per correre anche, perché ci sono categorie non solo in Italia ma nel mondo dove proprio corrono i gentleman riders ogni domenica, e quindi diamo loro la possibilità di comprare moto ready to race appunto per godersela in pista. Abbiamo clientele che acquistano le nostre moto come se fossero delle opere d'arte, quindi con veri e propri collezionisti, cultori della tecnologia, veri appassionati, quindi diversi profili abbiamo all'interno del nostro customer base. Poggi Polini, quanto la crisi delle vendite, che ha coinvolto, seppure in misura minore rispetto all'auto, anche il settore moto, ha inciso sui vostri volumi d'affari negli ultimi, 12 mesi? Chiaramente noi rappresentiamo una nicchia, siamo soddisfatti di aver lavorato comunque negli ultimi 8 anni sempre investendo tantissimo sulla ricerca, sull'innovazione e sulle nuove tecnologie. Infatti nonostante siamo in un momento difficile, abbiamo fatto questo investimento molto importante per presentare sul mercato questa Millona 16, quindi il nostro trend è comunque in crescita come fatturato, come volumi, siamo contenti. È chiaro che può essere un vantaggio poter offrire anche a una rete distributiva accessori e parti speciali per poter farsi di vendere più moto che sono a magazzino, quindi noi abbiamo sempre lavorato con la missione dell'eccellenza e della qualità del prodotto, sul prodotto moto, i numeri non ci interessano, ma ci interessano fare prodotti di qualità e soprattutto oggetti solo su richieste per i clienti, nel senso che da circa un anno e mezzo abbiamo anche inaugurato un nuovo progetto, nel senso che possiamo partire da una moto Ducati o da una moto che il cliente ha acquistato, oppure acquistare per lui una moto che interessa al cliente stesso e poi da lì disegnarla addirittura insieme, quindi dandogli la possibilità al cliente di partecipare a tutte quelle che sono le fasi di sviluppo, di progettazione, di design, di stile e di produzione della moto stessa. Per costruire appunto motociclette, ognuna unica, se vogliamo. Sì, anche sono, noi abbiamo costruito, parlando un po' di numeri, dal 2005 ad oggi circa 75 modelli, diversificati nelle varie nostre moto, Millona, Leggera, New Blue, questa moto speciale basata sullo Superbike, e quindi è una serie molto limitata. Ogni moto è sempre stata diversa l'una dall'altra. Noi ringraziamo Michele Poggipollini, CEO di NCR, azienda tutta italiana, che abbiamo cercato di farvi conoscere un po' meglio questa domenica. Al nostro Filippo Oreggi in regia sono già venute le lacrime agli occhi e la colina in bocca, ovviamente. Grazie Poggipollini per la sua presenza, buona domenica e buon lavoro. Buona domenica a tutti. È tempo di andare in redazione a quattro ruote. Abbiamo già in linea con noi il direttore Mauro Tedeschini. Buona domenica, direttore, ben trovato. Buona domenica a voi. Direttore, ne parliamo ogni tanto, lo facciamo sempre con grande attenzione ed interesse. Le auto blu sono un argomento che indubbiamente interessa al nostro pubblico, interessa al mensile che lei dirige. Peraltro sul numero di questo mese c'è uno scoop davvero intrigante e ne parliamo tra pochissimo. Prima però volevo chiederle cosa ne pensa invece di questi numeri dati dal ministro Brunetta a proposito di auto blu. Beh, oltre ai numeri c'è un neologismo interessante, perché dopo le auto blu adesso sono nate anche le auto grigie, che sono le auto a disposizione appunto della pubblica amministrazione ma senza autista. Brunetta dice che in realtà in Italia auto blu e auto grigie sono non le 600.000 di cui si favoleggia, ma soltanto 90.000. Al di là dei numeri, però, quello che diciamo noi è che le cifre che Brunetta ha ricavato come costo di, diciamo, sostenimento annuo di queste macchine è un costo assolutamente esorbitante, perché si parla di 3.300 euro e secondo noi, oltre al numero e al tipo di macchine di cui si parla, bisognerebbe intervenire in maniera molto professionale e molto incisiva anche sulla gestione di queste automobili, perché quello che non si considera è che molto spesso avere un'automobile vecchia, tra manutenzione e maggiori consumi di benzina, costa di più che non rottamare questa macchina e prendere un'auto più nuova, magari con le formule di noleggio che ci sono oggi. Dal punto di vista pratico, secondo lei, direttore, tutta questa attenzione, questo interesse nei confronti dell'auto blu porterà poi a qualche provvedimento efficace, concreto, reale nei prossimi mesi, nelle prossime settimane? Ma io spero e penso di sì, nel senso che al di là dello scandalismo, che in certi casi è anche giustificato, quello che conta poi è passare dalla denuncia alla pratica, nel senso di migliorare quella che è la situazione, anche perché noi non ci stanchiamo di dire che ci sono auto pubbliche, grigie o blu che siano, che vengono usate per degli scopi assolutamente legittimi e anzi encomiabili, come quelli della protezione civile, dei pompieri, comunque delle auto che lavorano per i comuni per andare a fare i servizi più importanti, e quindi è giusto anche che le persone che guidano queste macchine, che lavorano correttamente, abbiano delle macchine non solo diciamo che costino poco come gestione, ma che siano anche sicure e moderne. Direttore, poi avete scoperto che c'è anche qualche auto blu fantasma sconosciuta al PRA. Sì, questa è stata, devo dire, una grossa sorpresa, che è nata come al solito dalla segnalazione, come per noi succede spesso, di un lettore che ha avuto un piccolissimo e banalissimo incidente con un'automobile di cui ha preso la targa per rivalersi appunto per un piccolissimo danno che aveva subito, salvo poi scoprire al PRA che questa automobile non esiste, nel senso che proprio non era registrata. E da lì abbiamo scoperto appunto che a seguito di un regio decreto addirittura del 1927, quindi parliamo di 83 anni fa, c'era la possibilità per pochissimi personaggi, il re, la regina, qualche dignitario, il primo ministro, di essere esentati appunto dalla registrazione nel pubblico registro in cui tutti noi mortali invece abbiamo registrate le nostre automobili. Poi, come spesso succede in Italia, di questo decreto è stato fatto un abuso, per cui adesso ci sono centinaia di automobili che girano senza poter essere riconosciute, in particolare quando fanno qualche infrazione rilevate da occhi elettronici tipo l'autovelox, queste cose finiscono nel nulla perché non c'è nessuno a cui spedire la relativa multa. Incredibile è proprio l'aggettivo che funziona meglio in questi casi. Grazie come sempre al direttore di Quattro Ruote Mauro Tedeschini. Direttore, ci sentiamo settimana prossima. Grazie, buona domenica. A voi, buona domenica ancora. È tutto per questo appuntamento con Strade e Motori. Grazie per aver scelto anche questa domenica di viaggiare con noi. Grazie a Filippo Oreggi per averci guidato in regia. Se volete potete riascoltare tutte le nostre interviste, il nostro archivio sul sito radio24.it, scriverci all'indirizzo stradeemotori@radio24.it. Se invece volete ascoltarci dovete aspettare 7 giorni, perché noi torniamo puntuali domenica prossima dalle 16:30. Buona settimana da Massimo Discenza.